Attenzione, canale VD3. Ora attenzione 10. Ora attenzione, canale 10. Ora attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Danni! Oh, io che ci? Fai forza, io che non torno oggi. Ma non sto uscendo. Sì. Oh, chiedo, mi ha detto domenica, mi ha detto che c'è la Frusci. E tu? Marino. No, adesso no, perlomeno. Se te l'ha detto vuol dire che stai uscendo a fischi, magari. Avevi qualche altro apparecchio attaccato e non te ne sei reso conto. No, oh, cioè c'avevo questo attaccato. Così ero. Andiamo, dai. Ma da me stai arrivando benissimo. Meglio così. Se no, te l'aveva detto. Non c'è problema. Oh, yeah. So che dove all'acca, oh, yeah. Non poter stare adesso per messo la mossa d'acqua calda, vedere se riesco a farlo passare. Una fonte calda non ce l'hai? Una stufa, un qualcosa che ti mandi il calore alla gamba? Sì, c'ho la borsa dell'acqua calda, non hai sentito che mi sono messo la borsa dell'acqua calda adesso? Quella che si scalda i litri, per cui te la metti sopra. Ma hai bisogno di calore direttamente, no, con la borsa. La borsa ti dura per un'ora, la bui. Invece dopo la stufa ce l'hai, te la metti davanti e ce l'hai fisso. E c'è del borsifone io. Io facevo così quando mi faceva male la gamba, mettevo una stufetta davanti, mi mandava il calore e mi è passata la sciatica. Ma la giusti, è buon che l'offia. Che ce l'ha avuto tanti anni fa, che la sciatica non mi passava più. Ah, poi a ultimo ho buttato una stufetta davanti, e me l'ho fatto passare. Ma io c'ho tempo si fune, basta che attacchi la gamba, più calore di bussi ci vuoi. C'è un po' che devi oppure attaccato al tempo sifone. Allora che questa borsa non dura un'ora, dura un bel, perché c'è un liquido che tiene il calore all'interno, è di quelli cinesi che messa in questi cepetonali. Ora così meglio batte. Sì, è così. Se io a volte la lascio stare, no, vado a cenare e cosa, poi ritorno sempre calda, sempre efficiente, dai. E ti dura un bel po' di ore dura calda. Meglio così, se dura parecchio allora già va bene. Solo che i minori bisogna spostarlo, avevo sempre tutta la gamba guai. Cioè il minore bisogna spostarlo ogni tanto dalle parti che ti fanno male. Infatti. Se devi spostare in punti. Io taglio una stufetta da davanti a farmi arrivare al garoglio tutta la gamba. Mi va via. E dopo del coso non mi è tornato più. Mio padre anticamente sai cosa faceva? Se l'ha preso la sabbia dal mare, se l'aveva messa in un sacchetto, la metteva a scaldare al sole e poi si facevano le sabbiature calde, cazzo. Dice che glielo facevano passare. E anche la sabbia lo fa. Anche la sabbia già lo fa, che rimane calda. Che un paio d'ore te lo passo. Che tagliando dal mare che si appiedi l'ultimi nella sabbia calda, uia, e corrirò. Prima gli durava un bel la sabbia, gaccia. Ti rimane a farti baciare la sciatica. E anche al mare lui stava al sole, perché lui soffriva molto di dolore, ci metteva anche questa pomata, un unguento era che praticamente gli faceva un odoraccio puzzinoso, ma gli faceva passare i dolori. Era un bel forte, bruciava, ha detto che bruciava come se lo metteva. Gli si è pomata di una uscia, l'ha pomata di una volta, era un professore che la faceva, certo, e bruciava, non mi ricordo che quando la mettevo nei punti di coda ti passava i dolori, ti passava. E adesso non mi ricordo come si chiamava, però mi ricordo che mi diceva mamma mia come brucia quando se la mettevo. Ma non ne vazzene più così, ecco cosa è, di quelle pomate lì non ne fanno più. Chiamava di... dimmi di dire che sono carcinogene. E allora? Fazzene niente di corco tamba e non si fa nulla. L'ultima l'ho pagata a 49 euro io, quella da 500 e mezzo. Che rimane alla menta, rimane. E invece che scaldare ti rinfresca, al contrario. E se la dottore sa, non ne comprende nulla. Tutto il contrario. Rinfrescante, che non gli fa bene per quando uno ha un'infiammazione dallo sport, perché infatti è una pomata sportiva che usano gli sportivi, capito? No, una l'ho trovata che scaldava proprio, però costa un casino di soldi, un tubetto piccolino piccolino, cavolo, costava 25 euro mi pare. C'è degli divoni, di quelle buone costano, non ho più mette prima, grazie. Ma acciappavi subito, acciappavi, ti facevano bene. L'unica è il balsamo cavallo, il balsamo cavallo è praticamente una pomata che mettevano i cavalli quando avevano le artrosi, perché gli animali soffrono di queste cose, no? Ed è fortissima, fatta per i cavalli, però non devi sbagliare a metterla, perché se ne metti appena appena di più ti brucia l'acqua. Allora Jimmy, acciappava quella pomata lì. Quella non si trova qua, se va in continente la vedono anche dai cinesi, la trovi, perché l'ha preso un amico mio dai cinesi che abita in continente e mi ha detto su internet c'è, però è su eBay, praticamente io non ho la carta, devo chiedere a qualcuno che ha la carta se me la ordina, perché questa dice che è micidiale, come la metti ti fa passare il dolore. Oh, certo, non ce n'è buona allora. Ma è tutto per tappare nel momento, ma il dolore bisogna guardarlo alla base, che cos'è, capito? Quello è solo per fartelo passare nel momento, poi finito l'effetto della pomata di Don Ravini. Perché finito l'effetto la devi tornare a mettere. Sicuramente andrà messa due volte al giorno. E così io sempre faccio, due volte al giorno la metto la mattina quando mi alzo e la notte prima di coricarmi. La metto e a volte, cazzo, mi ne devo bisacchio, che mangio un dolore che non riesce a cadere un mic. È un problema se gli altri di sciatica, stanno di biglia, non ti molla più. Ah, io pensavo che una settimana mi passasse, invece ce l'ho da quest'estate, andavo a vedere i complici a giugno, l'umidità, magari d'estate non c'è neanche di tanta umidità, però di notte, si da tardi e magari lì che va fottito. Sicuramente ha preso umidità, parecchia umidità è preso. E te l'ha fatto malissimo. E anche se d'estate c'è caldo, l'umidità può cacceremmi. Vabbè, viene verso la mattina presto l'umidità. D'estate se la tardi c'è sempre caldo. E cosa vabbè, non fai nulla. Che cosa devi fare? Io me l'ho presa quando stavo sul camion dietro. Stavo dietro, attaccata al camion. Un po' oggi, un po' domani, mi ha cominciato a pigliarmi e poi ho riuscito a farmelo passare. Quindi ho tre corsi anche di massa. Guarda, oggi sono andato all'assicurazione e l'ho sentito, gli ho detto di scusarmi che mi dovevo alzare perché mi faceva male la gamba, non riuscivo a stare seduto. Certo, hanno avuto bene, lasciati cagata, non ti bassa più, non ti bassa. Ti fate venire duro in voce già. Un casino, quando c'è dolori, guarda, sono cose brutte da sopportare. I dolori sono cose atroci, proprio non ti fanno dormire a volte. Infatti è così. Non deve dolore. Non riesce molte volte, fai cosa, non riesce a resistere. La sera non è entrato nessuno qua, su 10 ho chiamato, boh, non c'è nessuno. Faccia bene. Quelli Marco, e beh, stavo chiamando, se la può comprare, se lo rispondevo, ho detto vai, io lascio acceso, tanto gli apparecchi di scaldo, e poi tanto dolore. Ciao Gianni, ciao Tore, io mi aggiungo alla lista dei doloranti perché stanotte ho passato una notte a tazza che non ti dico, un po' male al rene sinistro, quindi secondo me calcoli che si sta sbloccando qualcosa, ero fuori a far commissioni, sono tornato quasi barcollando già, proprio oggi una giornata di una sfiacchezza, di una stanchezza terrificante, guarda. Io sono andato all'assicurazione, mi sono dovuto alzare dalla sedia perché ho avuto un dolore allucinante, tipo un crampo. E gli ho detto mi scusi, ma no, non ci preoccupi, si alzi tranquillo. Però intanto mi sono dovuto alzare dalla sedia perché non ce la faccio mai stare seduto. Sì, quelli sono dolori forti, il mio è diciamo un indolenziamento sordo, no? Però non ho dormito praticamente tutta la notte e quindi ero ridotto ai minimi termini oggi. Tore, riprendi. Ciao Marco, purtroppo quando ci sono i dolori bisogna prendere i denti, che dolici, e sopportare. Tore, alza per aprire il microfono, che quando parla Marco mi spacca tutto, quando parli tu non ti intendi. Forse che sono lontano, ma adesso mi senti bene. Adesso meglio, sì. Ah, abbasso io, l'ho messo un quarto del mic. E quindi non è entrato nessuno oggi di alze, no? Ci siamo noi, Marco, i tre della Bonalisse. Comunque, tra ieri e oggi, tu sempre parlando di dolori, di malanni. I noghi, i ghiaccioganali ci vogliono i contributi dell'ASL. Io vorrei non parlarne, Marco. Guarda, ti giuro che vorrei non parlare. No, ma infatti, vabbè, bisogna stringere i denti e andare avanti, tanto indietro non possiamo andare. Tore, riprendi. Fate così, stringere i denti e andare avanti piano piano, sicché non resisti il dolore. Se no, dopo ti fate parare le lacrime. La vicciaia è garoia. Hai visto, quando cominciavi gli anni, te ne cominciavi i dolori, cominciavi. E dopo 50 cominciano, dolori qua, dolori là, e vista, guido, guida, sfruia, siamo come le macchine. Eia, i pezzi di ricambio dobbiamo trovare, capito? Il ricambista, mamma mia, fosse così facile. E adesso già ci sono anche quelli che si fanno i trapianti. È una trafila lunga, poi mica, come abbiamo detto ieri, per le visite sta diventando una cosa vergognosa, cioè alla fine paghi le tasse per la sanità e in più ti devi pagare di tasca le visite perché sennò te le rimandano mesi, anni, oppure ti mandano a Cagliari, Oristano, ma cioè, se uno è dolorante e magari non c'è possibilità di avere una qualcuno che lo accompagna, come fa? Ma io qua i viaggi lunghi non ce la faccio, con questa gamba così vengono i crampi, cazzo, la grimbata. Dicono che a me, ma voglio domani se vorresti dare appuntamento al medico diabetologo, a dopo di tanto, dopo di un anno. E chi te l'ho dato? La dottoressa, che deve andare il 15 alle 8, il 15, una dottoressa, e mi devo barricare quasi tutti i documentari. Come si chiama? Nel foglio ce l'ho scritto, non me ne metto nemmeno come ti si chiama. E dove l'hai trovata, Sacavino? Su a Rizzedo, e cupola a Vultan. So che è andato per le cose di mia moglie, per avere la visita, per la cataratta che ho operata. L'ho trovata per lei e mi ha dato un burro a me. Ho presentato l'impegnativa. mi ha detto, diciamo, dottore, se c'è il 15, ma l'ho detto subito, certo, ho subito dal volo. Ero così, mi sa che quella che c'aveva data lì, la dottoressa, sicuramente è quella. Di dottoressa mi pare che c'è, ce ne sono due del pare, di dottoressa, poi c'è qualcuno che sta facendo tirocinio, ho visto con il mio dottore insieme. Infatti. Ah, adesso vediamo, abbiamo domani sera, cioè, domani alle 2:30 devo essere lì con mia moglie a fare una visita, deve andare. E poi aspettiamo quando arriva il 15, devo essere alle 8 lì, devo essere. E vabbè, poi ti darà appuntamenti più in là, tra 6 mesi, ci farà fare adesso tutte le visite, cardiopatica, quello degli occhi, ti farà fare tutto perché sei adattato che non è fatto. Quella del cardiologo l'ho già prenotata per il 23 settembre, pensa un poco, sono già prenotato, quindi poi tutte le altre vedremo. Chica, già a settembre di Danilo. Sì, ce l'ho a settembre quella lì, ogni settembre la devo fare. Ah, ecco, ma te l'ha dato lui la prenotazione direttamente? La cosa, c'è la segretaria che prende le prenotazioni. Ma dal 23 me l'ha data, se non me l'hai punta, Dorla. Ma Marco, lì qui. Già, io sono entrato più che altro per salutare e adesso faccio qualcosina qua in casa. E boh, non ne voglio anche di parlare, guarda. Ci sentiamo in migliori condizioni, lo dico sempre, però non arrivano mai, sta in migliori condizioni. Prendiamola come filosofia. Ciao Gianni, ciao Tore, alle prossime, vai Tore. Ok Marco, ci risentiamo alle prossime, dai. Vai già. Ciao Marco, dai. Non so se stai all'ascolto, se no, buon pomeriggio, dai. Sentiamo, pensavo che rimanessi. Oh già, non so ma che ora è, aspetta, vediamo. Le 7:23, vabbè da, oggi non è cosa, da, poi mi devo preparare la differenziata, mamma di turchi. Da, ci sentiamo domani se tutto va meglio. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, va, facciamo così. Tieniti bene, stai a riposo un pochettino o magari fatti quello che devi fare, piano piano, e ti riadanzi. Ma c'è un documento di carretti, bisogna pignirsi. Infatti, così bisogna stare. Io per un momento gioco tranquillo, ogni tanto mi vengo di lunare il braccio, ma la resisto per quello, piano piano gli attira d'ananzi. Ma dolori ci sono sempre, ma questi sono dolori irresistibili, capito? Non sono dolori che puoi resistere, sono dolori fortissimi. Quello dice, stringi i denti e tira avanti, piano piano. Fino a un certo punto io a volte cerco di non prendere altri dolorifici e roba del genere perché so che fanno male, cerco di tirare avanti, ma qui alla fine non mi la fai più, dal dolore in voce non mi la fai. No, infatti non ce la fai, no, è inutile che pigli altri dolorifici, ti passo abbastanza un'ora e mezzo, ma è da voi di dorla. Certo, devi stare sempre pigliando gli antidolorifici, no? È terribile già che lo stomaco. E infatti così, perché lo stomaco non fanno. Già, penso che imbottito a pastiglie del diabete. Io del diabete già ne prendo, prendo la Xigo, lo prendo, ma se mi lo dovevo ritirare il Xigo, l'ho ritirato. E cura a me, penso che ci penso, devo ritirare il sigo oggi e me ne sono dimenticato proprio. Un bel di volte me ne metteggio la di ritirarli, magari sono che devo ritirare il sabato mattina e me ne dimentichiamo e ritiro il lunedì e ritiro. Oh, già ne ho, perché io non aspetto mai all'ultimo momento, le ordine sempre un po' prima, anche se il dottore mi conta quanto ne prendo, visto è fiscale, ma carità. Ah, io già ce li ho sempre in più, ce li ho, quindi anche se le devo ritirare il sabato, già ne ho a fine della settimana. E anche io sono così, non aspetto mai l'ultimo momento, ordinate, capito? E anche io ho sempre in più, ce l'ho, no, non lascio mai finirle prima. Ma infatti deve essere così, non bisogna aspettare all'ultimo, perché magari c'è qualche intoppo, arriva il giorno dopo, vuol dire questo exiguo, io le ordino e poi mi arrivano il giorno dopo, capito? No, a me quando mi dice che deve ordinare, arrivano a mezzogiorno e mezzo il giorno stesso, che arrivano. No, andrò in domani a ritirarmi. E se sono al magazzino di Sassari, sono in quello di Cagliari, non arrivano così, arrivano il giorno dopo. Ma fino adesso non mi posso lamentare, sono sempre arrivati a mezzogiorno e mezzo. Sì, perché probabilmente quelli lì ce l'hanno nel magazzino della SN di Sassari, ma se non ci sono qua le devono tirare da Cagliari, capito? Sì, quello sì. Già è così infatti. Oh, aggiungo sempre che me le portano sempre, dice, il mezzogiorno, a mezzogiorno e mezzo, mi dicono sempre. Sì, anche a me quando ci sono qua, me le danno così, me le danno subito. Ma se non ci sono, io devo andare a Cagliari, arrivano la sera alle 7:30, ma io la sera non ci vado, e vado lì domani. E anche io faccio così, vado l'indomani, vado a ritirarmi. E me le ritiro. Se ti rimane nei bagagli ci vedi udini, ne abbiamo tutti diritto. No, non è che ho invato nei bagagli perché sono medicine. Quelle che mi ordinano sono medicine che costano. Chi devi costare 40 euro o un bacco? E le pago. No, oh, non le pago io quelle lì, certo. Già mi erano i giambati, chi si riprendeva prima costavano 56, costavano. E me li hanno cambiate infatti. Oh, ma dico, se non ci dovesse dare più l'assistenza sanitaria, te devi pagare, sei puttito, a chi devi pagare via. Certo, no, andiamo male così. Vuol dire che Tino Rebiglio, cosa vuoi che ti dica? Più un'ambizione va a pigliare, perché costano bene quelle pastiglie, quelle del diabete costano bene, anche gli aghi. Una volta sono rimasto senza aghi, li ho dovuti comprare, non gli aghi, le strisce. Adesso mi si è rotto quello del cuginito, non riesco a trovarne uno, ragazzi, da quando vado lì alla SL a fare la visita, glielo chiedo il cuginito perché mi si è rotto, mi è caduto in terra e non funziona più. Chiatta, chi c'è feo? Quello è brutto, così, no, già ce l'ho io. E anch'io ce l'avevo, ma che aggiunto, si è rotto. Quando andavi a Puglia ti riusciva la parte di davanti e non faceva nulla. Adesso mi sto pungendo con l'ago, però a volte non prendo bene la distanza e a volte mi pungo di più, mi faccio male e non riesci a regolartela la distanza, capito? No, io me lo sono fatto con il numero 5 ce l'ho e mi buca bene. Quando premo mi esce il sangue, subito mi esce. A me a volte non mi esce il sangue, capito? A volte non ne ho proprio. Mi buco in tutte le dita e non mi esce. Certo, poi ti fai una bella grossa, vai. Allora, invece che 5 deve usare il 6? Io uso la mano perché si è rotta, quindi a volte non lancio bene, a volte lancio troppo e buco troppo, capito? Infatti è così, a farlo a mano non fa, quindi diciamo che quando cambi ti danno il pugilato nuovo, ti deve segnare anche gli spilli, ti deve segnare di quel fungiditto. A me lo faccio dare della stessa marca One, quindi dove ci stanno gli aghi One. Ah, invece te ne fai la stessa marca, allora già andavi, se no li cambiamo e grande bomba. Non posso usare io senza gli aghi, senza fungiditto, perché lui mi ha fatto la proposta, dice perché non si mette direttamente il sensore e così non sta a pungersi ogni volta e cose. Ho provato, cazzo, ma mi ha fatto venire emorragia come ti viene rimpiazzato, ma non era male. No, se tu mi stai dicendo di queste cose no, manco ai tendini di volto. E mi ha detto, ma non gliel'ha messo il cerotto sopra, no? Ecco, adesso ve lo dico io, me la mangio io all'infermiera, mi dovevo mettere il cerotto per quello che sei riuscito là, che è riuscito sangue fuori. Ti ha mangiato tutto, certo. Vedo l'infermiera, che non si ammette che deve buire un zirotto. Certo, non lo so io. No, sono arrivato a casa e c'avevo la manica della maglietta tutta cattiva di fatta di sangue, quindi ho pure assusato. Certo. Non dico io, ma mi sono dimenticato già di tutto. Sai che tanto di troppo già la mettendo. Ah, mi ha fatto una lezione come posizionarlo, come metterlo. Tutto quanto perfetto, era una brava infermiera. Sicuramente quando ha tempo si deve comprare i cerotti, quando se lo mette si mette il cerotto. Ma l'ha anche detto, però lei non me l'ha messo, capito? Che se ne è dimenticata, tanto fa vita, se ne è dimenticata e da del bonito. Ci sono i ceruti che non te lo fanno uscire nemmeno con l'acqua, tu pensa che c'è gente che si fa il bagno con quelli, non li fa nulla. Ma ti devi ti bugni, quindi, certo, ti bugni ogni volta che te lo devi giamba. Sì, è l'acqua è grosso, ti fa il buco. E allora, quindi, no. Mi uso le cose, mi uso le strisce con il pungiditto, certo, se la prende in quel paese. L'ago rimane sempre infilato, capito? Infilato e non c'è bisogno di bucare tutte le volte. Te lo misura sempre così, capito? Ti avvicini il telefonino oppure ti danno un misuratore. Che praticamente tu lo usi al posto del telefonino, lo avvicini, però te lo devi portare sempre appresso, invece il telefonino viraia, ti metti là e te lo misura così, capito? Infatti è così, ma purtroppo. Adesso ci sono quegli altri cosi che stanno vendendo e che infili il dito dentro, ti dà la misurazione, ti dà. E ti fidi tu, anche io li ho visti, quello non ti fa pungere a me. Quello lì, certo, sembra che costa 15 euro o 20 euro. L'ho visto su internet io. Anche io l'ho visto su internet, solo che a me me l'avevo ordinato e me l'hanno mandato sbagliato, mi hanno mandato un'altra cosa per misurare la pressione. Oh yeah. E lo mandavi indietro. Ma faccio provato a mandarlo in Daredo e non dava fa. All'ultimo mi sono tuffato e non andava. A me già serve anche per misurare la pressione. Ma non ti hanno malato quello che del dito? No, questo è per misurare la pressione. Ha detto che è cosa che è il volume nel volto di dito. E ho già mandato il coso per il diabete che fa anche per la pressione. E che ti ha rimandato chi c'è la pressione? Mi ha rimandato. Allora c'è che hanno sbagliato. Perché solitamente quello del dito è per l'ossigenazione che c'è nel sangue, capito? Per misurare l'ossigeno che c'è nel sangue. E infatti è così, l'ossigenazione del sangue. Allora la pressione. Coloro che usano anche le ambulanze e cose per vedere l'ossigenazione che c'è. E infatti, quando vedo la prova a vai dei mobili, non riesci a buccarmi. E l'unica, io guarda, con queste cose non mi fido, se sbagli con questa macchinetta te ne danno un tanto al mese, se sbagli e magari si piega l'ago, qualche cosa del genere, non puoi farlo perché ti danno quelle macchinette giuste per tutto il mese. E a me 25 me ne stanno dando di coso, di strisce, e me ne devo fare, che devi farlo per 3 mesi. A me già governi 8 strisce al mese, il voto. Quindi una prima e una dopo, poi all'altro giovedì una prima e una dopo, arrivi a 8 a mese. E tu non la fai tutti i giorni, io ce la prendo sempre prima dei pasti, la prendo sempre. E dopo la cena, lo stesso, prima di cena, prima di pranzo, prima di colazione, lo faccio sempre così. No, io sto facendo... adesso questo giovedì devo iniziare dalla mattina prima di colazione e dopo colazione devo fare, poi l'altro giovedì prima di pranzo e dopo pranzo e poi in seguito. Capito. Ma tu perché sei prendo ancora le pastiglie? Ci vado a prendere le pastiglie, magari va bene, capito? Io prima le prendevo le pastiglie, poi sono passato all'insulina, non bastavano più le pastiglie. No, vuol dire che mangiavi molti dolci, vuol dire che la cosa ce l'avevi sempre alta. Se non mangio di dolci, è difficile che mangio dolci. Se non è che vado al bar, mi prendo una pasta e un cappuccino la mattina, ma questo qui di raro, non è sempre. No, io... io già ce l'ho sempre quasi bassa, quindi mi sto regolando, non ce l'ho alta. Infatti, dica la dottoressa, voglio vedere cosa mi dici, a vedere cosa mi dice adesso. Il libretto glielo porto lo stesso, quindi... E porto tutta la documentazione che devo portare. C'è la dottoressa Arca che è brava lì. Non so però se sei andato in pensione. Cosa? La dottoressa Arca, dicono che è brava. Non lo so, devo leggere il foglio, nel foglio c'è scritto che dottoressa è. Uno vale l'altro, se sono dottori. Sempre fatto loro, no? Infatti una ne avevo trovato dottoressa all'ospedale civile, mi ha chiesto se ero diabetico e ho detto di sì. Cosa prende? Pastiglie? Sì, ha giovato. Poi mi ha chiesto a vedere in genere quanto ce l'avevo e cosa. Detto, in genere il più alto che ho trovato è 135, no, quella è bassa, quando è così è bassa. Il brutto è a non essere a 200-250, la prima volta solo ce l'ho avuta, quando me l'hanno trovato, Come l'hai scoperto di avere diabete? Stavo accompagnando la mia figlia che era incinta e stava guardando se era diabetica e poi mi ha fatto misurare anche lei, c'era, proviamo a misurare anche lì, cazzo vira via 255 vira via e dice no, lei c'ha le cose. Poi dopo da un po' mi ha mandato a mangiare un panino con un prosciutto. Dopo 2 ore, gioco 2, tornato, e me l'ha misurata e era via normale, ce l'avevo, quasi normale. Allora mi ha detto, ecco, sei abbassata. Certo, andiamo bene, andiamo. E da lì mi ha ordinato le pastiglie. Cioè dopo che hai mangiato invece di salire ti sei abbassata? Mi sei abbassata, dopo di 2 ore però. non ce l'ho avuto alta, io dice mi ha fatto ballerina, ce l'ha, deve essere che è così, boh. E come a me, no, io dico la verità che a 150, 170 mi arriva, però in questi giorni ce l'ho 135, 98, sempre così. Io prima di pranzo o colazione ce l'ho sempre 90, 96 ce l'ho, molte volte ce l'ho 112, 110 ce l'ho. Non è difficile, se tu mangi le robe che non ti fanno male non ti sale, ti sale solo se ti mangi roba che ha carboidrati e zuccheri. Se vuoi aprire come mi hanno messo la dieta, sono sempre così, sono ormai 80 grammi di pasta, mezzo panino, che a pranzo dopo il pane non ne mangio nemmeno, la frutta la mangio sempre dopo, o di sera o la mattina, la metà, ecco cos'è. Faccio sempre così, faccio la notte e qualche volta tocco la frutta, qualche volta no. E io con Benetto, ma io ti lascio, il tocco che questo si sta lamentando, vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo, una buona serata e grazie per il questione. E già, alle prossime, ok, ciao, fammi bene. Ciao, ciao.